Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, gastronauti vicini e lontani. Ebbene, oggi parleremo di vino, parleremo in modo particolare di vino rosso. Vino rosso. Rosso d'estate anni fa era un tabù, rosso col pesce, Dio me ne scampi e liberi. Se andavo in un ristorante e uno chiedeva un piatto di pesce e poi chiedeva un vino rosso, si vedeva il suggeritore di vino o il sommelier fare una faccia, come dire, questo non capisce veramente un granché. Eppure nel tempo diciamo che è diventato sempre più comune, però bisogna stare un po' attenti, perché appunto dalle eccezioni poi si sta passando un po' a un rosso a tutto sparo, nel senso con temperature veramente molto ma molto basse, con rischio appunto di cambiare completamente profumi e sapori di un vino. Quindi rosso, diciamo, d'estate sì, ma diciamo facciamo qualche cautela, mettiamo qualche cautela, anche se io sono per il libero vino, nel senso per un vino democratico, di bere quello che in quel momento a uno piace bere, indipendentemente da cosa ne pensano gli altri. Comunque, appunto, ci sono sicuramente delle regole molto minime da tenere in mente, e io lo farò con un gruppo di persone che di vino se ne intendono. Ma prima di cominciare io voglio fare una domanda ai miei interlocutori con la musica. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia, l'ho bevuto Maria. Eccoci qua allora, Matteo Bernardi, sommelier delle Calandre di Padova, diciamo Padova anche se è una frazione, è una provincia di Padova, e Marco Reitano, sommelier della Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri, appunto l'Hotel La Pergola, e due che hanno delle cantine ben fornite sicuramente e sono molto molto bravi. Allora Marco, io ho messo questa canzone per chiedere, te lo ricordi il tuo primo bicchiere di vino? Sì, me lo ricordo, ero sicuramente molto piccolo, ero fuori in campagna dei miei e mio padre mi fece assaggiare questo vino, diciamo, del contadino, vino del vicino di casa. E a me, come dire, emozionava tanto quando vedevo il vino, solo che fino a una certa età non ce lo facevano toccare, però arrivato un giorno, non ero chiaramente ancora maggiorenne, mio padre mi fece assaggiare un goccino e io rimasi stupito, me lo ricordo benissimo. Matteo! Il mio primo bicchiere di vino alla fine non è neanche stato vino, perché comunque c'era mio nonno che faceva il vino in cantina, vino casalingo fatto a casa, e il mio primo approccio è stato appunto andare a prendere direttamente dalla botte che non era ancora fermentata, quindi non era propriamente ancora vino, avevo più o meno intorno ai 6 anni, insomma. Ma anch'io devo tutto a mio nonno, che voleva, se comprava le uve, faceva il vino in cantina, era sempre acetoso, e lì ho scoperto di dover andare a assaggiare altri vini, purtroppo è successo questo. Bene, e Marco Reitano, vino rosso d'estate, sta sempre più tornando sulle tavole questo vino rosso, ma io vedo in giro anche dei vini rossi a delle gradazioni, delle temperature veramente un po' fuori. Certo, allora tieni presente Davide che il cliente al ristorante, ma come consumatore oggi, diciamo, ha dei gusti molto più personali, ha affinato il suo gusto. I gusti personali lo allontanano un po' dagli stereotipi del vino rosso d'inverno, del bianco d'estate. Bene, bene, questo va benissimo. E in realtà si beve sempre di più quello che piace e quando piace, quindi questa già è una cosa importante, a prescindere poi dalle temperature esterne, che devo dire quest'anno l'estate ci sta giocando brutti scherzi, quindi si inseriscono meglio i vini rossi questa estate, diciamo che è un'estate con piogge, con cieli più scuri, per cui anche nel cucinare azzardiamo ancora dei piatti un pochino più pesanti, ecco che il rosso si sta bevendo di più, quindi in effetti il rosso d'estate dipende molto dalle temperature. È chiaro che se siamo in spiaggia, all'aperto, al sole, facciamo più fatica a consumare dei rossi importanti. Matteo, tu cosa ne pensi? Io mi trovo perfettamente d'accordo con Marco, c'è da dire appunto anche che sta variando appunto il gusto dei clienti, diciamo che tendono a prevalere comunque vini che siano anche più leggeri, sicuramente anche dovuto al fatto delle norme, delle regole della strada, quindi vanno anche per quanto riguarda i bianchi e soprattutto i rossi, cercano vini che siano meno strutturati, meno alcolici, più leggeri e profumati, quindi riguardo anche l'estate, che la cucina è sicuramente più leggera, si segue sempre questo trend, diciamo, di vini che non siano troppo pesanti. Ecco Marco, però ci sono dei vini rossi, diciamo, poco tannici, che vanno benissimo anche serviti freschi, non dico sotto l'ombrellone, ma sicuramente anche nelle serate d'estate al mare? Cioè assolutamente sì, Davide, e ne troviamo, noi abbiamo la grande fortuna di avere il paese del vino, la collocazione nel Mediterraneo ci rende veramente un paese di grandi frutti per quanto riguarda il vino, quindi noi possiamo trovare dei rossi sia dal nord al sud che possano soddisfare le esigenze del periodo estivo, sia in termini di gradazione alcolica, ma anche, voglio dire, come dicevi te giustamente, di essere morbidi, di essere freschi, di non essere tannici. In questo hanno contribuito tanti produttori di vino che anche nelle zone dove si producevano in passato, diciamo, vini di grande struttura, hanno fatto sì con le tecniche di cantina di produrre dalle stesse uve, per la stessa tipologia, dei vini molto, molto più facili. Ecco, dai ai nostri radioascoltatori qualche consiglio di qualche... Ma assolutamente ti prendo due suggerimenti, uno al nord e uno a profondo sud. Allora, se pensiamo a Nebbiolo, pensiamo al Barolo, e quindi vini importanti di struttura da lungo invecchiamento. Stessa cosa, vini poderosi si producono in Sicilia dal Nero d'Avola, ma negli ultimi anni i produttori hanno alleggerito molto, quindi, come ti dicevo, con le raccolte nella giusta maturità, con la freschezza e con gli imbottigliamenti, diciamo, precoci, quindi senza andare a produrre i vini a denominazione d'origine controllata e garantita, vedi nel caso del Barolo, si sono fatti versioni sia di Nebbiolo a nord che di Nero d'Avola a sud, che sono giocate totalmente sulla freschezza, sulla semplicità, quindi troviamo spesso dei vini che fanno 12 gradi e mezzo, 13 gradi rossi, dove il tannino è lievissimo, quindi molto sottile, e sono vini che vivono di freschezza, di piacevolezza, e si bevono sempre. Chiaramente c'è il discorso delle temperature, ma il discorso delle temperature di servizio fa parte del buon senso. Le temperature di servizio vanno rispettate d'estate come d'inverno, infatti il discorso di servire il rosso un po' più fresco d'estate non è valevole solo per l'estate ma anche per l'inverno, certo, i certo. Rossi vanno serviti sempre a temperatura di cantina, e una cantina che si rispetti non deve avere più di 18 gradi. Ecco, invece le cantine degli appartamenti andiamo a 20-22. Matteo, dai tu anche qualche consiglio. Beh, assolutamente, io comunque come vini d'estate, vini estivi, mi piace pensare a qualcosa che sia appunto leggero, e questo va, come si diceva prima, a seguire il trend della divinificazione degli ultimi periodi. La prima cosa che mi viene in mente è pensare magari anche a qualcosa di rifermentato, di un qualche vino spumantizzato, rifermentato in bottiglia, come ad esempio può essere un Lambrusco, o pensavo anche, rimanendo comunque nella mia regione, un Bardolino con una Corvina bella profumata che risalti appunto la freschezza, i profumi e non tanto la struttura. Per quanto riguarda poi la temperatura di servizio, quella riguarda anche poi l'abbinamento, nel senso che magari con piatti che necessitano un vino che abbia una certa struttura e che non diventi troppo pesante, anche abbassandola leggermente, anche intorno ai 12-14 gradi, insomma, a me capita di servire dei vini anche un po' più freddi, magari se non hanno dei tannini troppo pesanti, certo, anche un po' più bassi, anche magari verso i 10-11, insomma. Poi penso anche a un Lagren, insomma, qualcosa di... Un pino nero del lago di Caldaro, ma anche un grignolino d'Asti, comunque tutti i vini che non abbiano una grande struttura, che non siano troppo carichi di tannini, che comunque abbiano una bella freschezza e dei profumi che siano più estivi, diciamo, meno speziati, ecco. Bene, grazie a Matteo Bernardi, e a Marco Reitano, due sommelier importanti, avete sentito, hanno dato una serie di indicazioni, appunto, sia Marco Reitano, che ha parlato di produzioni particolari a base Nebbiolo e anche dei siciliani, di alcuni vini siciliani, mentre appunto Matteo Bernardi ha dato altre indicazioni. Lambrusco, certo che Lambrusco servito fresco sicuramente è uno dei vini che negli ultimi anni, diciamo, è esploso di nuovo, perché era esploso anche tanti anni fa. Il gastronauta. Vino, sempre vino, fortissimamente vino, rosso d'estate, un tabù un tempo, ora diciamo che questo tabù è un po' crollato, però insomma c'è ancora qualche resistenza. Sentiamo, appunto, abbiamo con noi alcuni super esperti di vino, ma io prima di parlare appunto di rosso voglio fargli una domanda in musica. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia. Ebbene, allora, Michele Marcucci, Enoteca Marcucci, Pietrasanta, un luogo sacro ormai per tutti gli appassionati di vino, appunto, diciamo, clou della Versilia. Michele, quando hai bevuto il tuo primo bicchiere di vino? Te lo ricordi? Ma io lavoravo nel negozio dei nonni che infiascavano il vino manualmente. E la mamma mi ci portava prima ad andare all'asilo, che probabilmente già lì infiascavano qualcosa fatto. Hai inzuppato il dito. Giovanni Fiorin, manager Dry e Pisacco di Milano. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Tu ti ricordi il primo bicchiere di vino? Caspita Davide, in tutta onestà no, è passato molto tempo, io non mi ricordo, però ricordo il momento in cui ho iniziato a berlo con attenzione e con la voglia di capire e di approfondire cosa c'era nel bicchiere. Michele, questo, diciamo, rosso d'estate, ho chiamato questa trasmissione, nel senso che negli ultimi anni, dicevo, il rosso è tornato prepotentemente anche col pesce, anche d'estate. Diciamo che ci sono anche delle esagerazioni su questo, in molti casi con le temperature. Ma tu noti che la gente ormai, diciamo, anche d'estate ordina vino rosso per il gusto di bere un vino importante? Sì, sì, sì. Anche il criterio dell'abbinamento è quasi, per alcune persone è quasi scomparso, che si beve un toscano importante anche mangiando pesce. Ecco, ma le temperature la gente le chiede sempre più freddi, però. Sì, io in parte sono d'accordo, ma a meno che non si esageri per certi tipi di vino, ecco, tipo un esempio, un Brunello, ecco, non scenderei al di sotto di 16 gradi. A volte si eccede, no? Si mette in frigorifero, la si beve a 12, a volte anche a 10 gradi. Quindi si beve un altro vino, non quello che dovrebbe essere. Certo, certo. Io freddo berrei solo vini non tannici, con tannini dolci, tipo se certi Pinot Neri, Lagrein, Bardolini o chissà che. Rossese di dolce acqua, che io ho un po' il pallino con questo. Giovanni, tu cosa ne pensi su questo? Ma Davide, guarda, secondo me d'estate un po' si acuisce la percezione dell'inadeguatezza molto spesso del servizio, nel senso che per farla breve, la mia sensazione è che troppo spesso, non sempre, non vorrei generalizzare, ma molto spesso i bianchi sono serviti un po' troppo freddi e i rossi sono serviti un po' troppo caldi. In realtà la forbice, per non parlare poi, tu qualche settimana fa parlavi di bianchi, i famosi orange wines o comunque bianchi fatti da lunghe macerazioni. Ecco, la sensazione è che molto spesso le temperature di servizio non siano proprio un argomento centrale da parte di chi fa questo mestiere, quando invece sono molto molto importanti. Da questo punto di vista concordo con il collega nel dire che dire rosso a temperatura serviti freschi, freddi sicuramente no, ma freschi, è un po' riduttivo, nel senso che ne esistono talmente tante espressioni che ognuna di queste richiede attenzione, no? Se da una parte, per esempio, noi serviamo il Barolo al bicchiere, però sicuramente non lo serviamo alla temperatura in cui serviamo il Grignolino, per dire, piuttosto che i Rouquet o gli stesso Bardolino. Oppure, molto interessante e secondo me paradigmatico di quanto la temperatura possa essere importante nell'espressività di un vino sono i vini dello Jura, quel vitigno pazzesco che è il Pulsardo, che dir si voglia. Ecco, lì è un bianco molto, è un rosso, perdonami, molto, molto tenue, in cui la temperatura di servizio è determinante, se lo sei a 18 gradi o quella famosa espressione inutile tipo temperatura ambiente, certo, è imbevibile praticamente. Sì, temperatura ambiente che molti produttori non vuol dire assolutamente niente, perché non si sa in quale ambiente andrà. Sì, quindi e molti produttori continuano a scrivere produttore ambiente. No, dicevo le varie temperature. Io una volta ho assistito a una delle sue grandi operazioni di Giorgio Grai, che saluto se magari fosse in ascolto, il quale mi ha proposto un Lagrein in quattro temperature diverse per quattro piatti diversi, partendo dall'antipasto e arrivare fino in fondo. E devo dire che è veramente interessante, cioè si sentono dei vini che possono sopportare diverse temperature, quindi credo che sia un gioco che si può anche fare d'estate con alcuni vini. Michele, ma qual è il vino rosso che più di ogni altro ha successo nel tuo locale d'estate? Ma c'ho un Chianti biologico di Castellina, io lo preferisco nel classico fiaschetto impagliato, perché fa quasi da glacette, quasi naturale, no? Quindi lo dentro il ghiaccio e lo togli e gli conserva un po' di più la temperatura. Quindi è il vino che quest'anno ha avuto grande successo, questo. E poi i Pinot Neri del Mugello. Ai Pinot Neri del Mugello. Certo che oltre il noto potere fortuna c'è un altro, mi sembra, Brunello, sì, un altro Pinot Nero del Mugello che sta emergendo. Sì, poi c'è questo Rio, ecco. Soprattutto nell'annata 2010, è buonissimo, sembra un vino che viene chissà da... Assomiglia quasi a un Pulsar, a certi Pulsar che diceva il collega. Ecco, ma è incredibile che appunto questa area del Mugello stia imperversando in questa maniera sul Pinot Nero, perché fino a qualche anno fa, diciamo, chi pensava che da quel territorio lì venissero fuori diversi Pinot Neri interessanti. Grazie a Michele Marcucci, ti ringrazio, grazie. Grazie. A presto. Torniamo a Giovanni Fiorina. Giovanni, voglio chiedere questo: vini rossi, mi dai una serie di consigli di vini rossi, appunto di italiani, cominciamo dagli italiani, che secondo te si prestano benissimo a essere bevuti e assaggiati durante il periodo estivo, che quindi la temperatura molto fresca non gli cambia i connotati? Sì, io prima, vabbè, ne ho citati alcuni prima, quindi il Bardolino piuttosto che il Grignolino, che il Rouquet. Ci sono anche alcuni Cerasuolo d'Abruzzo, che in realtà nel certo. bicchiere hanno tutta la forza, tutto l'aspetto anche dei vini rossi, che possono secondo me entrare in questo ambito, considerato che anche qui dire vino rosé può voler dire tutto e vuole dire niente, nel senso che le diverse tonalità e i tempi di macerazione determinano che tipo di vino possa essere. Io, se posso permettermi, secondo me bisognerebbe fare attenzione a un paio di aspetti, e cioè, come giustamente diceva il collega, che a seconda, anche adesso un Barolo, noi stiamo servendo un Barolo in bicchiere, può essere servito fresco, bisogna fare attenzione a quale temperatura, perché fresco anche qui è abbastanza vago come termine. Io ho imposto la cantina dei vini rossi a 14,5 gradi, tempo che lo prendo dalla cantina, lo porto al tavolo, l'apro, l'ho verso, ci siamo avvicinati che 15,5-16, ma anche 15 più che 16, che provato con la temperatura misurata è un ottimo modo di bere anche un vino molto strutturato come il Barolo. La cosa importante secondo me poi è fare attenzione a non abbassare troppo la temperatura, perché certo. Tenderemmo poi a livello di percezione ad andare a evidenziare quelle componenti un po' dure, tra virgolette, chiamiamole così, come tannini e acidità, certo. Che poi andrebbero un po' a discapito di tutta la parte morbida, che è la parte bella, la parte importante di quei vini rossi. E poi un'altra cosa che secondo me bisogna fare attenzione è che se quando anche d'inverno alziamo di poco, ma io dico di poco, la temperatura dei vini rossi, perché il problema secondo me è generalizzato e non sussiste solo d'estate, i vini d'inverno, i vini caldi non vanno comunque bene, ma abbassare la temperatura vuol dire anche inibire leggermente tutte le componenti volatili, sì. Che in qualche modo veicolano i profumi. Quindi se d'inverno la temperatura è un po' più alta il bicchiere può essere bello ampio, magari d'estate il bicchiere può essere un po' più piccolo, in modo che non si disperdano quei profumi che sono un po' più a fatica veicolati appunto dal fatto che la temperatura è un po' più bassa. Quindi sono dei piccoli accorgimenti che possono aiutare a godere di un vino rosso a temperatura un po' più bassa. Grazie a Giovanni Fiorini. Ora andiamo a Roma, andiamo da Alessandro Pipero, patron del ristorante Pipero Hotel Rex di Roma. Buongiorno Pipero. Buongiorno a voi, come va? Bene, anzi piove troppo spesso, ma insomma, comunque va. Qui. Senta Pipero, stiamo parlando di rosso d'estate, ecco, volevo capire, lei cosa ne pensa? Allora, io intanto, se posso essere vero e sincero come presumo, non faccio sinceramente differenza tra estate e inverno, tra rosso e bianco, nel senso che poi conta molto lo stato d'animo e conta molto anche la temperatura, perché anche per i piatti, no, a volte dicono questo è un piatto invernale, questo è un piatto estivo, ma poi in Italia il pollo con i peperoni si mangia a Ferragosto, o se ti mangi che ne so, la lasagna in un posto che c'è l'aria condizionata, sembra un po' retorico, ma va bene così, quindi non farei tanta distinzione, anche se poi avete ragione, ho sentito i discorsi e il rosso messo un po' in fresco è più piacevole l'estate per motivi di temperature esterne e anche corporee. Volevo fare un passo indietro perché intanto c'è molta gente che purtroppo ancora intende la temperatura ambiente quella di casa e non quella sì, di purtroppo, quindi tu a purtroppo volte così, vedi, sì. Le bottiglie dice, si deve tenere a temperatura ambiente, e poi a temperatura ambiente è i 25 gradi di casa o i scaffali di un bar, e quindi dice questo è ambiente, perché l'ambiente invece l'ambiente è del vino, certo, che sono, questi sono i produttori che lo scrivono, certo, che sono almeno 7-8 gradi, se non dico 10, meno di quella che dobbiamo vivere noi esseri umani. Senta Pipero, ci dà qualche indicazione, qualche suggerimento ai nostri radioascoltatori di un paio di rossi per l'estate? Allora, un paio di rossi per l'estate, intanto i rossi freschi si intendono quelli di annata recente e soprattutto quelli poveri di tannino, di tannino, di corpo, che non hanno passato tanti anni in riposo in legno o in botti grandi, quindi che sono più bevibili, ecco, perché vengono considerati leggeri. Ma l'abbiamo più o meno detti tutti, comunque per dare qualche cosa credo di nuovo, o qualche bel pinot nero che già come base natia non ha grandezza di tannini ma grandi profumi, e quindi quando un vino è povero di tannini si cerca il profumo e la freschezza, quindi per me il pinot nero è uno dei vini più adatti. Poi ci sono i grignolino, i barbera, i dolcetti, non lo so, insomma, agli anici del sud, soprattutto campani, che sono meno strutturati di quelli del Vulture, qualche Monica di Sardegna, che è uno dei... E poi ci sono anche i Lambruschi. Sì, Lambruschi, poi ecco, arrivavo anche alle bollicine, quindi ai vini un po' mossi, che sono ancora più ideali, perché comunque sia l'anidride carbonica apre lo stomaco e quindi si servono sempre da inizio pasto, no? Certo. Quindi basta con i tabù, secondo me. Basta con i tabù, pesce bianco, carne rosso, temperatura... No, ma assolutamente, ma anche perché poi bisogna vedere anche come è cucinato, perché magari un piatto di prosciutto dice che è maiale e quindi c'è il rosso, e magari col pesce bianco poi magari si fa una spigola, crosta di patate, aglio, varie spezie, alla fine ha bisogno per forza di un, certo, rosso, quindi non ci sono regole, ma soprattutto bisogna conoscere le regole se poi le devi trasgredire. Bene, è palese. Beh, questo è vero, giustamente, le regole bisogna conoscere per trasgredirle, questa è un buon, diciamo, è una buona, come posso dire, una buona massima. Grazie Alessandro Pipero, grazie a presto. A buon presto. Lavoro e buone bevute. Il gastronauta. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia, l'ho bevuto, Maria, alla tua salute. Ricordi, caro Maria. Luca Gardini e caro Andrea Grignaffini, prima di parlare di rosso d'estate, voglio chiedere, Luca, ti ricordi quando hai bevuto il primo bicchiere di vino della tua vita? Buongiorno a tutti, ciao Davide, ma come faccio a dimenticarmelo? È come il primo amore, il primo bacio. a 12 anni e mio babbo mi ha fatto bere, stavo imbottigliando insieme a mio nonno il vino di Sangiovese romagnolo della Damigiana, e mi ha fatto tirare dalla gomma e mi è venuto sul primo sorso di Sangiovese, da lì mi sono innamorato. Beh, ricordiamo che il padre di Luca è un grande sommelier, quindi diciamo che ha avuto degli insegnamenti già da bambino, così con la canna. Andrea, tu quando hai bevuto il primo bicchiere? Ciao Davide, ciao Luca, ciao a tutti. E l'ho bevuto, guarda, una cosa che ricordo è un periodo della mia infanzia, ero molto molto giovane, una fetta di salame, una malvasia a quei tempi un po' boccata, ho capito che qualcosa non quadrava ed io ho detto posso fare qualcosa nel mondo dell'enogastronomia. Quindi succede. Io l'ho raccontato prima che siccome mio nonno comprava le uve, faceva il vino in cantina, era sempre acetoso, anch'io ho pensato la stessa cosa, quindi ho pensato che bisognava un po' capire anche il resto del mondo. Poi lui lo presentava come fosse una grande cosa, io all'inizio dicevo boh, poi piano piano ho capito che era meglio lasciare stare il vino di mio nonno. Luca, ma ti ricordi anche l'ultimo bicchiere di vino? Beh certo, ieri sera prima di andare a letto ho bevuto un grande, ero in un ristorante qua giù nella Riviera Adriatica. Mi hanno portato, stavamo mangiando un pesce, mi hanno portato un re fosco del Prunco Rosso, servito a 13-14 gradi fresco, che faceva anche un po' di condensa il bicchiere, di vino Filluga, fantastico, acidità, profumi, e devo dire che ho riscoperto un vitigno che purtroppo in Italia ci si dimentica, ma bisogna riscoprire questi vitigni, Davide. Beh, tu hai dato anche già un'indicazione per un vino per l'estate, e appunto un rosso dell'estate. Luca, tu sei uno che giri moltissimo, fai tantissime degustazioni. Il rosso negli ultimi anni, diciamo, ha preso piede anche d'estate. Un tempo era tabù, per carità, quando che ordinavi un bicchiere di rosso con il pesce, appunto, venivi guardato male, o chi era con te a tavola diceva beh, da che mondo arriva questo. Poi negli ultimi anni però c'è stato, come posso dire, una rivalutazione anche del rosso. Io ho l'impressione però che si stiano passando un po', come posso dire, le barriere oggi, perché no, io sono per il vino libero, cioè uno deve bere il vino che vuole, però sulle temperature vedo delle temperature molto sballate, diciamo, servite con i rossi, addirittura freddi, molto freddi. Quindi sicuramente tu sei stato uno dei primi promotori del rosso tutto l'anno, come un po' il panettone tutto l'anno. Io condivido il rosso d'estate, il problema è le temperature, purtroppo insegnano male, comunicano male, nel senso che dicevano il rosso d'estate no, come il Barolo no, da giovane o viceversa. Il rosso va benissimo d'estate, va benissimo col pesce, va benissimo con tutto. Il problema è servire la temperatura giusta, perché si scrive ancora in etichette temperatura di servizio e temperatura ambiente. Certo. Fuori ci sono 40 gradi, cosa ti danno di brulè, dico sempre io, no? Quindi bisogna essere un po' meticolosi in questo. Ti dico, anche 2 settimane fa ero giù in Molise, ero a mangiare a Vasto, del pesce buonissimo alla griglia, pesce al durro, mi ha portato un tintiglia a temperatura fresca, quasi 10 gradi, 11 gradi, ho aspettato qualche minuto, ma ho gustato un vino rosso che mi piace, vitigni dove la gente si dimentica, e questo è il grande errore, ci dimentichiamo che in Italia abbiamo un patrimonio e un panorama di vitigni autoctoni unico al mondo e dobbiamo valorizzarli. E io condivido la tua filosofia che tu porti avanti da anni, sei stato il primo in Italia, l'appoggio e sto cercando di portare avanti anch'io, perché abbiamo bisogno di scoprire queste realtà, e soprattutto il vino va bevuto sempre, qualsiasi momento della giornata e con testa, ma soprattutto alle temperature dovute. La temperatura di servizio di un vino è la cosa più importante, come la conservazione. Tra l'altro della tintiglia è bellissimo il nome, io credo che se si fossero messi, non so, 10 agenzie di comunicazione per trovare il nome non l'avrebbero trovato così bello. Andrea Grignafini, tu cosa ne pensi? Rosso d'estate? Guarda. Purtroppo, se dovete scegliere un bastian contrario, questa volta avete scelto la persona sbagliata, perché purtroppo sono completamente d'accordo sia con te che con Luca. Il rosso d'estate fa benissimo, però va benissimo, si abbina a una quantità innumerevole di piatti, pensiamo a tutto il mondo delle zucche, dei caciucchi, delle grigliate, anche di certi fritti. L'unica cosa è la temperatura. In questo veramente la sommellerie dovrebbe fare qualcosa, perché mi è capitato in un ristorante molto importante, temperature bollenti nei vini rossi, una settimana fa le temperature ghiacciate nei vini bianchi è stato molto importante. E mi ricordo un aneddoto: una volta scrissi una piccola recensione a un Barolo che indicava nella controetichetta, qui mi rifaccio quello che stava dicendo giustamente Luca, si consigliava la beva a 22 gradi, io consigliai la beva a 18, mi chiamò il produttore dicendo che già non vendeva il vino, io gli avrei creato un problema, forse invece il problema se l'è creato lui, perché effettivamente mandava in onda un vin brûlé. Sì, ma diciamo, quindi, diciamo Andrea e Luca, che anche d'inverno bisognerebbe rispettare certe temperature per i rossi, perché arrivano, come dicevate prima, dei vin brûlé anche d'inverno, non solo d'estate. Assolutamente. Prego. È vero. No, questa è una cosa giusta, ma secondo me il problema, Davide, è solo uno, che si fa, quando si insegna e si comunica, si insegna quello che è la sommelleria, il mondo del servizio al ristorante, si fa troppa teoria e poca pratica. Uno può leggere mille libri, può aver bevuto quello che vuole, ma la pratica del ristorante è differente, è quel tocco di classe che un sommelier o un maître deve avere, che purtroppo sta sparendo nel nostro lavoro. Cioè, sono figure importanti che dobbiamo riscoprire con adeguata teoria, ma tanta pratica. Cioè, io ricordo quando lavoravo da Pinchiorri, Giorgio passava la maggior parte del tempo la sera a togliere i vini dal secchiello, rimettere e tenere sempre i vini a temperatura, perché così faceva emozionare il cliente, gli dava la possibilità di bere un vino, grande vino, ma a temperatura corretta e apprezzarlo. Bisogna ritornare su questi standard. Purtroppo la qualità dei servizi in Italia è calata negli ultimi anni, e questo mi dispiace, perché io, avendo sempre lavorato in grandi ristoranti come Cracco e Pinchiorri, ero molto meticoloso, e caro amico Andrea, anche tu quando mi vieni a trovare, Davide, sai che io ci tremo molto a queste cose. Devo dire che diciamo che qui si è sollevato un problema molto particolare sul vino, non tanto sul vino rosso ma sul vino in generale, la carenza degli uomini sala, la carenza di chi serve il vino. Sempre di più in Italia, come ho detto tante altre volte, cresce la voglia di fare non il cuoco, lo chef, quindi una cosa ben particolare di tanti ragazzi, però sempre meno si trova gente disposta appunto a fare la sala, e quindi a gestire diciamo questi servizi molto particolari, che prevedono anche una cultura che purtroppo oggi non c'è. Voglio tornare a Andrea. Andrea, hai qualche suggestione di vini rossi per l'estate, al di là della temperatura? Cioè, ci sono alcuni vini, alcuni vitigni che si prestano meglio di altri? Io sono di Parma e penso che tutto il mondo parlo di tutti i lambruschi, di tutte le quattro le province, parlo del Gutturnio, parlo di certi sangiovesi esili, ma parlerei di qualche Chianti di Governo scendendo dalla Toscana. Ma di vini, secondo me, da sfruttare, da proporre in modo fresco, ce ne sono tantissimi. Cioè, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Spezzo un'altra lancia su cui hai lavorato tanto anche tu, sul mondo del lambrusco. Pensa alla versatilità, alla contemporaneità. Viviamo in un momento anche, voglio dire, meteorologico complicatissimo. In questi giorni sembra un po' di essere ai tropici, sì. Ci sono umidità, ci sono delle cose che alla fine influenzano, no? Quanto un profumo della signora accanto influisce il clima, l'umidità, e quindi effettivamente c'è sempre più voglia di fresco. Gli inverni non sono più quelli di prima, le estati magari diventano tropicali, effettivamente il fresco è una sensazione di benessere e è proprio una sensazione che anche in linea con la cucina, che è sempre più leggera, quindi anche questo è un altro dato piuttosto importante. È così, io penso sempre che c'è un grande vino, magari dell'Abruzzo si parla sempre di Trebbiano e di Montepulciano, giustamente, ma c'è Rasuolo, un grande vino, secondo me, che può essere servito a tutte le latitudini e con temperature completamente diverse. Non so se Luca è d'accordo. D'accordissimo, ma non dimentichiamoci la lacrima di Moro d'Alba. Ah, certo. Come mi rifaccio a te, Davide, anche a Andrea Vignassini, il Chianti classico, cioè sta tornando di moda e bisogna farlo ritornare di moda, che è un grande vino, una grande area che tutti si dimenticano. Poi c'è l'Ormeasco di Pornace, ci sono tantissime realtà che dobbiamo andare a scoprire, ma perché no, una bella Barbera servita bene, oppure ci sono mille vini. Io dico, bisogna bere ultimamente usando meno la testa, o per sentito dire, ma più col cuore. Il vino ha bisogno di spontaneità, di emozioni, di sensibilità. Il mondo del vino ha bisogno di questo oggi, e difatti quello che io condivido, Davide, che tu sei stato, come diceva Andrea, il primo a rilanciare il Lambrusco in Italia, e grazie a te e grazie ai grandi produttori di Lambrusco che oggi fanno grandissima qualità, si è riscoperto un vino, un vitigno, una tipologia che è unica nel suo stile. Diciamo diciamo, Luca e Andrea, che negli ultimi anni la produzione qualitativa è decisamente aumentata, perché se torniamo indietro di 10 anni, cioè il Lambrusco non è quello di oggi. Oggi c'è stata una crescita importante. Andrea, cosa ne pensi? Ma assolutamente sì, qualche azienda importante con numeri importanti ha fatto anche un po' da traino a livello mediatico, tanti piccolissimi produttori che stanno producendo cose straordinarie. Peraltro il Lambrusco è anche un universo di stili diversi, ce n'è per tutti i gusti, un po' più abboccati, un po' più neri, un po' più chiari, c'è acidità, c'è dolcezza, ce n'è un po' per tutti, quindi penso che sia davvero un vino su cui puntare, anche perché ha un prezzo che rispecchia perfetto il momento storico, insomma. Sì, anche questo è vero, il prezzo gioca sicuramente la sua parte su questo, ma appunto le temperature l'abbiamo detto e ripetuto, l'hanno un po' ripetuto tutti, e bisogna saperle dosare, non esagerare in alto e non esagerare in basso. Io devo dire che se andiamo a scovare tra i vitigni autoctoni ne troviamo tanti. Io ad esempio sul il rossese di Dolce Acqua ho una passione particolare, e lo dico ancora una volta, mi fa specie che in molti ristoranti della Liguria il rossese di Dolce Acqua non si trova. Io credo invece che tutta quell'area marina della Liguria dovrebbe valorizzare questo vino, perché è un vino secondo me che va anche diciamo servito a temperature basse, e quindi è molto piacevole sicuramente d'estate. Luca, cosa ne pensi del rossese di Dolce Acqua? Tu lo sai che molte volte quando siamo a pranzo insieme in amicizia, sì, ce lo troviamo, lo beviamo freddo, certo, e ci piace. È un grande vino. La Liguria, secondo me, è una di quelle regioni che, se sfruttata, può essere una regione, la nuova regione italiana, capito? Come dicevo prima, insieme al Molise, l'Abruzzo e le Marche. Quindi condivido, lo sposo in pieno, ma l'Italia è piena di questo. Il problema è che non è il problema del singolo vitigno, il problema è dell'Italia, che cerca sempre di andare all'estero per cercare le cose, per far successo le mode, quando non cerchiamo di valorizzare, tutelare e credenziare quello che abbiamo. Cioè, io ti dico solo, perché no? Un bel Nebbiolo base, solo acciaio, fresco, servito, non ce lo dobbiamo dimenticare. Cioè, è pieno, da San Giovese di Romagna, da Rosso Conero, cioè dal lungo e largo l'Italia offre meraviglie. Cerchiamo di stare un po' più uniti e di fare vedere che l'Italia non è tanto altro, non è solo quello che si è raccontato finora. Dalla cucina, che non è il mio campo, anche se giro e mangio tantissimo, si vede anche dai chili che ho preso negli ultimi anni, al vino e a tutto quello che ha. Bene. Non bisogna valorizzare. Grazie Andrea, grazie Luca. Ciao a tutti. Ciao, buone vacanze, buone vacanze a tutte e due. Il gastronauta. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia, l'ho bevuto, Maria, alla tua salute. Buongiorno a Vincenzo Donatiello, sommelier ristorante Piazza Duomo di Alba, 3 stelle, poi diciamo che i patron sono produttori di vino, quindi andiamo proprio in un luogo proprio, diciamo, dedicato al vino. Vincenzo, ha sentito questa canzone e lei quando si ricorda quando ha bevuto il primo bicchiere di vino? Buongiorno, sì, certo che me lo ricordo. Me lo racconti? Avevo il fratello di mio nonno, io vengo dal Vulture, che produceva Aglianico, e il primo bicchiere è stato l'Aglianico del... Da dove esattamente viene lei del Vulture? Da quale paese? Da quale borgo? Ravello, è il paese più a nord, poca produzione di Aglianico, perché sì, è la parte un po' più bassa del Vulture, però comunque ha un tiro di schioppo da quelli che sono poi i comuni storici della denominazione, come Barile, Venosa, Melfi. Senta, l'Aglianico del Vulture è molto cresciuto da allora, come qualità? Ha avuto assolutamente una crescita esponenziale negli ultimi 10 anni, l'avvento di piccole produzioni, di giovani imprenditori vitivinicoli ha fatto sì che si cominciasse a conoscere anche al di fuori dal mercato locale e nazionale. Ecco, ma lei lo consiglia d'estate l'Aglianico del Vulture? Ci sono alcune produzioni che possono sposare, diciamo, la causa estiva. Ci sono magari dei produttori che lavorano in maniera un pelino più moderna, che ci permettono di avere un tannino più rotondo e quindi vini che possono essere serviti anche un paio di gradi, i classici 18 gradi, e ci permettono di non avere una potenza eccessiva e da poter essere utilizzati anche negli abbinamenti nella stagione estiva. Ma quale temperature? Questo è il punto, secondo me, basilare. Io adoro servire determinati vini attorno ai 16 gradi. Questo ti permette di caratterizzarli un po' di più sulle note di freschezza, mascherando leggermente magari la parte alcolica, e questo per soprattutto di regalare un punto in più di gastronomicità ai vini. Ecco, nel ristorante appunto a Piazza Duomo, diciamo che molti avventori sanno che è la casa di un produttore di Barolo, di Barbaresco, dei grandi vini piemontesi. D'estate, ecco, qual è il comportamento del consumatore? Chiede un nebbiolo diciamo servito fresco, oppure assolutamente d'estate, diciamo, il rosso viene accantonato? Diciamo che in parte viene leggermente accantonato, però allo stesso modo noi abbiamo, soprattutto quest'anno, abbiamo fatto una ristrutturazione, abbiamo riclimatizzato le nostre cantine e arriviamo comunque a tavola nel 90% dei casi con il vino su quella temperatura lì, perché anche comunque ci sono delle annate di Barolo e Barbaresco un po' più calde, come la 2009, la 2007, la 2005, che ci permettono di abbassare leggermente la temperatura di servizio. Ecco, altri vini rossi per l'estate? Ce ne sarebbero tantissimi. Se guardiamo qui nel cuore della Langa abbiamo il Pelaverga. Il Pelaverga piccolo è un vitigno che trova dimora esclusivamente nel comune di Verduno ed è quasi un rosé. Ha un'espressività estremamente fruttata, è un complesso di profumi che sembra quasi un cestino di spezie, delle note di fiori, ed è un rosso che consumiamo abbastanza nel periodo estivo. Oltre il vino che lei ci ha indicato, quali altri? Fuori Piemonte anche. Guardando fuori Piemonte, a me piace molto il Rossese. Finalmente uno che parla di un vino che ho già citato diverse volte perché nessuno lo nomina mai. Benissimo, caro Donatiello, bene il Rossese, sono d'accordo con lei. Poi ci sono, negli ultimi 10 anni, così come dicevamo prima dell'Aglianico del Vuture, è cresciuta tanto la viticoltura di montagna dell'Abruzzo e troviamo dei Montepulciano che hanno quasi dei caratteri borgognoni, quindi comunque con un tannino sottilissimo e più incentrati su frutto e freschezza. Anche in questo caso sono dei vini che noi consigliamo spesso. Ecco. E poi, sì, prego. Ne pensi altri? Perché io passo anche la parola a un personaggio che ha un ristorante che è considerato un po' il covo dei bianchisti, quelli Orange Wine, e quindi un covo dove il rosso Gualtiero Panciroli sì, lo serve, ma proprio su richiesta. Gualtiero, è così? Sì, ciao Davide, sì è così, fermo restando che comunque abbiamo degli ottimi rossi, dei piccoli produttori che alle volte sono un po' introvabili. Ecco, ma d'estate, Gualtiero, tu cosa consigli d'estate? C'è qualche rosso in particolare che consigli d'estate? Ma d'estate a me piace fare le rivalutazioni di certi vini un pochino abbandonati, tipo adesso sto proponendo un Bardolino, che il Bardolino, ahimè, un po' come dimenticato, come era stato un pochino non dimenticato ma massacrato, eccetera. L'anno scorso avevo un bel groppello, quest'anno il Bardolino, un San Magdalener, che comunque anche quello è sempre un bel piacere bevuto fresco, e poi i classici Pinot Neri che i francesi ci hanno insegnato a bere freddi, ecco. Il Bardolino secondo me è un grande vino dell'estate, perché può essere veramente servito fresco, molto fresco, e sul pesce, essendo poco tannico, va benissimo. Il Bardolino è stupendo proprio, perché lo bevi senza accorgerti, cioè, e poi è gradevolissimo, solo che quando dici Bardolino a chi magari se la tira un pochino si storce il naso. Purtroppo, sai, succedeva anche con Lambrusco un po' di anni fa. Ora tutti quelli che storcevano la bocca invece lo chiedono, e come, perché è tornato alla ribalta. Ma tu, che sei molto appassionato, esperto di vini al confine tra il Friuli e la Slovenia, c'è qualche rosso, appunto, che può essere servito fresco, interessante per l'estate? Sì, direi proprio di sì. Diciamo che abbiamo il Refosco, che si può bere tranquillamente fresco, ed è, oppure quei Cabernet loro fanno, ecco, cioè non, fermo restando che anche comunque un vino di Josko Grauner, anche una sua riserva rossa, la puoi bere con qualche grado in meno, per l'amor del cielo. Se vai a casa sua te lo tira fuori la bottiglia avanzata dal frigorifero. Bene, ma io, cioè, non devo dire che il frigorifero serve come per rendere anche bevibili certi vini, non ci sono dubbi. Torniamo a Vincenzo Donatiello. Donatiello, ha pensato a qualche altro vino da consigliare? Assolutamente sì, io per l'estate mi sento di consigliare la Sicilia con grande piacere. Abbiamo un parco di vini rossi per l'estate che parte dai rossi dell'isola di Salina per arrivare all'Etna, per scendere verso Ragusa con il Cerasuolo di Vittoria, e poi un'altra piccola produzione che è poco conosciuta e più, che è il Faro, dall'aspetto di Messina. Eh certo, il faro Palari, tanto per non far nomi, sicuramente è un classico di Nerello Mascalese, quindi lei sostiene che è un vitigno che va servito fresco, i vini prodotti da Nerello Mascalese. Assolutamente sì, se pensiamo all'Etna, che oramai è diventata la Borgogna del Mediterraneo, dove appunto il Nerello Mascalese con Nerello Cappuccio la fanno da padrone, trovo che siano dei vini che si adattano benissimo a una temperatura un po' più fresca. Gualtiero, ma alcuni tu che sei molto esperto di vini sloveni, anche senza, è difficile ricordare i vitigni, ma ci sono anche dei rossi sloveni adatti appunto per essere serviti freschi d'estate? Ma io direi di sì, quando è la teoria che quando il vino è buono lo bevi a qualsiasi temperatura e con qualsiasi cosa, no? Sì, però non a 20 gradi, non a 22, vino rosso. Certo, certo. No, adesso la tendenza è sempre avere anche i rossi un pochino più freschi, quello sì. E comunque ci sono i loro uvaggi di Merlot Cabernet che si prestano a essere tenuti un pochino più bassi di temperatura del solito, che in estate comunque è più gradevole. Certo che l'abbassamento a temperatura ti eleva il tannino, e allora con certi vini, magari che sono già tannici di per conto loro, con certi produttori non è che ti soddisfino, certo. Molto, questo è un pochino il problema. I Pinot Neri li mettono freddi giusto per tirar fuori i tannini, che ne hanno pochi, no, in Francia. Sicuramente, però diventa piacevole il Pinot Nero così, diventa molto piacevole. Assolutamente, assolutamente, specie anche se si va in Alsazia con i loro Pinot Neri bevuti freddi, sono una meraviglia proprio. Cioè non... Donatiello, lei ha parlato di Pelaverga, ma il Rouquet? Va bene. Assolutamente, anche il Rouquet, anche in questo caso un vino, ma se pensiamo a tutto quello che è l'Astigiano e Monferrato, abbiamo un altro protagonista che può essere un rosso per l'estate, che è la Fresa d'Asti. Vabbè, certo, anche la Fresa sicuramente è un grande vino estivo. Bene, grazie a Vincenzo Donatiello, sommelier del ristorante Piazza Duomo di Alba, grazie a Gualtiero Panciroli, ristorante Rovello 18. Bene, questo viaggio nel vino io lo chiuderei con una musica, lo chiuderei con vino, così chiudiamo questa trasmissione proprio all'insegna del vino rosso, e io vi auguro buon Ferragosto e vi auguro un bellissimo weekend al ritmo di vino. Le tue labbra son più morbide dei fior, più dei grappoli maturi sotto il sol. I tuoi baci come il vino fanno dire al mio cuor: vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Quando soli ce ne andiamo a passeggiare, sotto un albero restiamo un po' a sognare. I tuoi baci così dolci fan cantare al mio cuor. Vino, vino, vino, vino e bacia ancora.